impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Manuela Polli, un'azienda, tre donne e 143 anni di verdure sott'olio. Di Adriano Palazzolo. L'azienda di cui parliamo in questa puntata opera nel settore delle conserve agroalimentari e ha sede a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. È il gruppo Polli, oggi leader nel settore di sottoli e sottaceti, che nasce dall'intuizione di un uomo, Fausto Polli, in un altro luogo e ben 143 anni fa. A raccontarci come sono andate le cose è una rappresentante della sesta generazione della famiglia Polli, Manuela Polli, direttore marketing dell'azienda. Nasce nel lontano 1872, era inizialmente una piccola attività commerciale nel centro di Milano, in via Broletto, quindi un semplice negozio che vendeva generi alimentari, conserve per la maggiore, e poi nei suoi 143 anni ha subito ovviamente moltissime evoluzioni, innovazioni, la prima nel 1919, quando è stato aperto lo stabilimento di Monsummano Terme, dove noi ancora oggi siamo presenti e rappresenta il nostro impianto produttivo principale del gruppo Polli, il più grande. Il primo prodotto all'epoca era lo stoccafisso, pesce, quindi un prodotto che noi oggi non trattiamo assolutamente più, e quindi ecco, questo è anche un evidente simbolo dell'evoluzione che l'azienda ha subito. Proprio quello stabilimento in Toscana, usato durante la Prima Guerra Mondiale per produrre carne in scatola per l'esercito, viene rilevato per ampliare la produzione di conserve da Giuseppe Polli, nipote dell'esercente di quel piccolo negozio nel centro di Milano, e diventa la nuova sede dell'azienda. Gli affari procedono e, passata anche la Seconda Guerra Mondiale, arrivano la prima svolta e le prime rivoluzioni tecniche per la conservazione delle verdure. La Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente ha portato di nuovo un altro momento di depressione, al quale l'azienda ha reagito negli anni, diciamo, 50-60 con nuovi prodotti che per l'epoca erano molto innovativi, come ad esempio le conserve sott'olio, sott'aceto, che erano già prodotte dall'azienda, ma si puntò a verdure nuove, più ricche, quali ad esempio i carciofi e funghi, che erano un po' meno utilizzati prima della Seconda Guerra Mondiale. Già nei lontani anni 60-70 fummo i primi a utilizzare capsule twist off, quelle che appunto creano il vuoto, piuttosto che ancora prima i primi a utilizzare i vasetti di vetro nel nostro settore, quindi passare dalle latte di banda stagnata ai vasetti di vetro. E dopo il boom economico degli anni 60, l'azienda continua a crescere con un'importante acquisizione a Eboli, in Campania, negli anni 70, che lancia la Polli nel mercato della grande distribuzione organizzata. Acquisemmo uno dei nostri fornitori, quindi ampliammo a monte, e tutt'oggi questa azienda, che si chiama Fratelli Tafuro, è una delle tre aziende che compongono il gruppo Polli. Con l'arrivo della grande distribuzione organizzata in Italia, ovviamente i fatturati, la produzione industriale aumentò notevolmente. Noi fummo tra i primi ad approcciare questo nuovo tipo di distribuzione al consumatore, e da lì ovviamente quindi un incremento della produzione industriale. Ma la GDO porta con sé anche le private label, ossia l'inserimento nei supermercati di marchi propri delle varie catene. Una minaccia per le aziende, che fa attraversare alla Polli un momento di crisi, affrontato dal padre, Marco Polli. Fu un passaggio piuttosto rapido, quindi noi ci troviamo con un'erosione delle quote di mercato importante, di conseguenza di fatturati e volumi. In più l'azienda si era indebitata abbastanza pesantemente in quel periodo per delle migliorie che ha dovuto apportare agli stabilimenti. Insomma, fu un momento abbastanza delicato. Fortunatamente mio padre, fin da allora, ma già prima, ma comunque in particolare in quel momento, dimostrò le sue capacità imprenditoriali e risollevò l'azienda, producendo le private label, quindi trasformandole da una minaccia a un'opportunità e riuscendo a risanare assolutamente tutti i debiti che l'azienda aveva in quel periodo. Stiamo oggi leader nel nostro settore nella produzione di private label, produciamo marchi per le più importanti catene europee ed italiane. Ovviamente la GDO ha portato questo primo grande salto di volumi e di fatturati, quindi proprio per la portata di di prodotti che richiedeva, cosa che prima con la distribuzione tradizionale non c'era. Oggi pesano tanto le prevalenze, pesano il 70% del nostro fatturato, mentre il 30% è sviluppato dal marchio Polly. Se tengo ovviamente il cappello del direttore marketing, mi viene un po' da piangere, però comunque mi dispiace, perché ovviamente le private label non si portano dietro quel lavoro di marketing strategico e attivo che invece è proprio di un marchio industriale. Se metto il cappello dell'imprenditrice, assolutamente va benissimo così. Oggi il gruppo Polly esporta in più di 30 paesi, dall'Alaska allo Zimbabwe. Dà lavoro a oltre 150 persone e insieme all'acquisizione della Fratelli Tafuro vanta anche quella della spagnola Estornino SLU, produttrice di olive. Le redini dell'azienda sono in mano a un gruppo di 3 giovani donne. Manuela Polly, direttore marketing e voce di questa storia, sua sorella Claudia, responsabile vendite Italia, e la cugina Maddalena, che si occupa delle vendite all'estero. Nel 2014 il fatturato del gruppo è stato di 70 milioni di euro e, grazie a una nuova intuizione da parte della famiglia Polly, ha subito una spinta importante a partire dagli anni 2000, quando si fatturava intorno ai 50 milioni. La Polly fino agli anni 2000 non ha mai fatto uscire da uno dei propri stabilimenti un vasetto di pesto o di salsa per la pasta. Negli anni 2000 abbiamo dovuto cominciare ad organizzarci per questo tipo di produzioni, proprio perché era una domanda sempre più, come posso dire, importante da parte dei nostri clienti esteri, sia marchio Polly che private label. Volevano il pesto, volevano le salse per la pasta. Da lì ci siamo attrezzati all'inizio anni 2000, per darle due dati: il primo milione di vasi di pesto barra salse l'abbiamo prodotto intorno al 2005. Nel 2014 dallo stabilimento in Monsumano Terme sono usciti più di 30 milioni di vasi di pesto. Per questa linea delle salse pesti, che è una linea nuovissima, altamente tecnologica, l'azienda ha investito attorno ai 4 milioni di euro. E dal mercato estero, oltre a una maggiore domanda di nuovi prodotti, arrivano anche le soddisfazioni più grandi a livello di fatturato. Nel 2014 abbiamo chiuso il fatturato di 70 milioni con un peso di 51% sviluppato all'estero e 49% all'Italia. C'è stato il sorpasso per la prima volta, assolutamente. Fino al 2013, per dire, eravamo le stesse percentuali ma invertite, 51% Italia, 49% estero. Per darle un altro dato, per quanto siamo cresciuti all'estero, intorno al 2005 l'estero pesava al 15-20%, quindi una crescita veramente importante, veramente impattante per l'azienda. Di questo 51% è sviluppato la maggior parte in Europa. Noi, come dicevo, serviamo le principali catene europee, però stiamo svolgendo anche un ottimo lavoro in Sud America, in particolare in Brasile, quindi un paese emergente con grandi potenzialità, e poi anche abbastanza bene in Asia, devo dire, quindi fare Middle East. I nostri prodotti cominciano a essere apprezzati anche dagli asiatici. Per quel che riguarda il mercato italiano, invece, a pesare sul fatturato, oltre alla crisi economica, c'è anche un altro fattore che per un'azienda agroalimentare è di importanza fondamentale: il meteo. Purtroppo, ad esempio, tra 2013 e 2014 si è verificato un abbassamento del fatturato sviluppato in Italia, dovuto a due ragioni. In primis, vabbè, sempre questa crisi che purtroppo ci trasciniamo dal 2008, e poi una estate particolarmente piovosa e fredda, che nel nostro settore pesa parecchio, perché abbiamo molti prodotti stagionali che hanno un forte peso nel fatturato aziendale, quale ad esempio in primis il condimento per insalate di riso. Nel 2014 è stata un'estate disastrosa e questo ovviamente non ci ha aiutato in tal senso. Fortunatamente le vendite all'estero sono state più che proporzionalmente maggiori della perdita avuta in Italia, quindi il bilancio è positivo. Nonostante il sorpasso del fatturato estero su quello italiano, l'attenzione per il mercato del nostro paese rimane per l'azienda un punto saldo. Italia rimane comunque un paese ovviamente importante, comunque il fatturato Italia pesa ancora il 49% dell'azienda, quindi è importante per noi, quindi i bisogni dei consumatori italiani restano importanti. C'è sicuramente una difficoltà del paese, più che nostra difficoltà a rispondere alle loro esigenze, che quindi ha portato a una riduzione del fatturato. Noi cerchiamo sempre, attraverso indagini di mercato, attraverso panel test dei consumatori eccetera, di appunto capire quali sono le nuove esigenze dei consumatori. Non a caso appunto abbiamo fatto delle grosse innovazioni di prodotto che vanno a rispondere a queste nuove esigenze. Una volta c'era la classica tavolata della domenica con grandi sfarzi, grandi pasti, grandi quantità. Oggi la gente, soprattutto noi donne, abbiamo sempre meno tempo di pensare alla spesa spesa di cucinare, quindi siamo sempre più in cerca di prodotti che danno questo tipo di servizio, ma senza mai rinunciare assolutamente alla qualità e alla bontà del prodotto. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.